Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. La deflazione capta l'umore dei consumatori, la predisposizione a spendere subito o a rimandare una spesa. Capta il sentiment del mercato. La deflazione inizia con il calo dell'inflazione e poi più le persone rinviano gli acquisti in attesa di prezzi più bassi, più i prezzi scendono. Basterebbe uno shock inflazionistico che ponga fine alle aspettative deflattive e rilanci la crescita. Ma la BCE dovrebbe ricordare non soltanto il dramma dell'iperinflazione, che è alla base della sua politica, ma anche quello della deflazione. In Germania, infatti, tra il 1930 e il 1932, fu la violenta deflazione dei prezzi a creare il mix esplosivo che portò Hitler al potere. Oggi la miopia tedesca, perciò, non è neppure storicamente comprensibile. Ecco, quello della deflazione era uno spettro che si aggirava in Europa fino a pochissimi giorni fa. Poi, ieri, ha parlato Draghi. Sentiamo cosa ha detto. Le misure contribuiranno al ritorno del tasso di inflazione a un livello vicino al 2%. Primo, abbiamo deciso di abbassare il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell'eurosistema di 10 punti base, portandolo allo 0,15%. Secondo, con lo scopo di sostenere il prestito delle banche a favore di famiglie e di imprese, daremo il via ai TLTRO, ovvero operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine. La somma stabilita ammonta a circa 400 miliardi di euro. Terzo, il Consiglio direttivo ha deciso di intensificare le misure preparatorie per acquisti nel mercato degli ABS, ovvero titoli garantiti a sostegno delle imprese, per migliorare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Questo è quello che abbiamo fatto e pensiamo sia un grosso intervento. Abbiamo finito? La risposta è no, non finisce qui. Are we finished? The answer is no, we aren't finished here. Ecco, professor Savona, buongiorno. Senta, ha sentito Mario Draghi, dice che non è finita qui, ma secondo lei sono sufficienti questi interventi della BCE per battere la deflazione che era lo spettro, che è lo spettro che gira per l'Europa? Ma io penso che poi nella conferenza stampa Draghi ha sottolineato qual è il vero problema, che paradossalmente non è la deflazione, che è pur sempre un pericolo, ma la tassazione. Lui ha sostenuto la tesi che le tasse sono troppo alte e quindi l'economia reale, finché non si smette di minacciare o di rilasciare dichiarazioni come per il nuovo catasto urbano, dichiarazioni che la pressione fiscale non muterebbe, poi la Banca d'Italia ha detto che aumenterà del 60% e il governo, con una battuta un po' ridicola, ha detto che invece no, aumenterà solo del 12%, come se l'aumento di una tassa al 12% fosse niente. Quindi, riassumendo, le decisioni prese da Draghi e dalla BCE, dal suo direttivo ieri, sono decisioni che vanno nella giusta direzione, ma se a queste decisioni noi annettiamo speranza di una ripresa rapida, che lo stesso Draghi ha negato perché ha parlato, sì, Draghi di ha parlato 6, 7, di... trimestri. 3-4 veramente ha detto, 3-4. Sì, 3-4 allora, trimestri. Ho letto un giornale, no, vabbè, non importa. Insomma, un tempo non breve, diciamo, esatto, un annetto, esatto, come minimo. Esatto. Un annetto. Quindi, come minimo. Sì, sì. Poi ha anche aggiunto una cosa che devo dire personalmente mi fa infuriare, perché sono da anni che sostengo che l'economia italiana, limitiamoci all'economia italiana, certo, non ha solo il motore delle esportazioni, ma anche il motore delle costruzioni. Mentre lui ha comunicato espressamente che i 400 miliardi messi a disposizione, tra l'altro dal settembre in poi, campa a cavallo che l'erba cresce, questo direi è il caso di dirlo, i 400 miliardi non devono essere destinati al finanziamento dell'edilizia per evitare bolle speculative. Ma qua devo dire che a un certo punto negli Stati Uniti Obama e Bernanke sono intervenuti e credo che sia il motivo per cui Obama, ecco, è stato rieletto. Professor Savona, però, se ho capito bene, ieri Draghi ha detto anche chiaro e tondo alle banche di tornare a fare il loro lavoro, cioè di dare prestiti all'economia reale. Questo è un dato, mi sembra, no? No, non è un dato, è un'esortazione. No, diciamo un dato, nel senso che è un'esortazione abbastanza forte, dato che un po' di potere ce l'ha per convincerle. guardi, il meccanismo, certo, ho detto che le decisioni prese sono decisioni buone, ma non affrontano il problema della crescita e della disoccupazione. Il problema della crescita e della disoccupazione si offre attraverso la pressione fiscale e l'efficienza della D'accordo, però noi adesso stiamo parlando di quello che ha fatto la BCE, non è che è la BCE che può fare, diciamo, in prima persona lo sviluppo. Io volevo dire una cosa, mi ha colpito molto, e vorrei una sua interpretazione, il fatto che ieri alla BCE per la prima volta si è presa questa decisione all'unanimità, il che significa che anche la banca tedesca ha, come dire, cambiato in qualche modo rotta, cioè c'è un segnale di inversione di rotta da parte della signora Merkel e della banca tedesca, o sbaglio? No, questo è assolutamente corretto, cioè che ci sia un mutamento di atmosfera in ambito europeo, questo è un dato di fatto, che però questa atmosfera si tramuti in azioni concrete e corrette. Però intanto l'atmosfera cambiata offre la possibilità di giocare anche politicamente delle carte diverse, insomma in qualche modo il gioco tedesco si allenta. Ma io sono un po' più concreto, a un certo punto non mi basta l'alimentazione delle speranze che avvengono attraverso decisioni. La BCE ha preso delle decisioni interessanti ieri, ma già ho sottolineato che la grande spinta del T-litro con il targeted, le operazioni mirate, iniziano a settembre. Sì. Quindi a un certo punto i problemi li abbiamo oggi. I problemi abbiamo in Italia una disoccupazione del 12-13%, Spagna e Grecia, insomma abbiamo problemi naturalmente molto però questo è, lo sappiamo bene, però diciamo questa decisione, io per cercare di collocare questa decisione nelle azioni che si possono fare a livello europeo, penso che a Renzi questa decisione offra qualche carta politica che diventi strumento tecnico in più da usare. Volevo sapere se lei è d'accordo o no. È molto articolata, mi fa ricordare l'analisi che lei avanza. La frase di Ennio Flaiano, che direi per gli italiani il punto più corto per raggiungere l'obiettivo è il ghirigoro, mi sembrano che sono ghirigori. Vabbè, io dico, naturalmente l'atmosfera è cambiata, certo, però bisognava che i 400 miliardi li mettesse a disposizione l'indomani, questo è il punto fondamentale. Secondo punto, che aggiungesse agli interventi come un fatto prioritario, non come un'esclusione, le costruzioni e l'edilizia, perché solo così riassorbiamo immediatamente un po' di disoccupazione e riapriamo le speranze che a un certo punto la crescita possa ritornare a breve scadenza. Certo, dall'edilizia non l'avremo. Ecco, con quello che capita all'Expo e a Venezia, diciamo che l'edilizia va bene, naturalmente ci vorrebbe un'edilizia che riesce in qualche modo a essere gestibile dal punto di vista, però questo non riguarda le decisioni che deve prendere Draghi. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666. Una cosa, professore, volevo chiedere prima di passare la parola ai miei amici qua. Il professor Guarino ieri ha detto una cosa che potrebbe essere molto interessante. Ha detto che Renzi potrebbe richiedere una esatta applicazione degli accordi di Maastricht, a prescindere dal regolamento voluto dai tedeschi che impone il vincolo del 3%. Ecco, questa è una piattaforma abbastanza innovativa, interessante, che potrebbe essere sfruttata sul piano politico, oppure no? Con Guarino siamo da tempi, mesi e mesi, che insistiamo su questo punto. Appunto. Il rispetto dei patti non è Bruxelles che lo deve chiedere a noi, ma siamo noi a doverlo chiedere a loro. E quindi lì c'è una chiave politica, no? Che può essere usata. Esatto, rispettate i patti, perché chi legge l'articolo 3 dello del Trattato di Lisbona, che riprende tutti i precedenti trattati europei, si dice chiaramente che noi abbiamo firmato, che noi stiamo insieme in Europa per avere pace e benessere. Poi va in dettaglio: lavoro per la donna, assistenza giovanile, welfare. Ci sono praticamente, c'è l'oggetto del contratto, e la violazione dell'oggetto del contratto in Europa è palese, e quindi l'Italia ha diritto di richiederlo. Ecco, vabbè, e quindi questo, diciamo, è la base, come dire, tecnica, ma assolutamente giuridica. Ecco, giuridica. Scusi, grazie. Giuridica, sulla quale l'azione politica si può innescare se uno ne prende, come dire, la bandiera. Naturalmente si prende l'ondata di ritorno molto forte. Guardi, nella mia esperienza di governo, e che ho puntato i piedi in alcune posizioni, da Bruxelles chiamavano il capo del governo Ciampi, il mio presidente, e gli dicevano che io facevo fare una brutta figura al paese, che ero troppo rigida e che doveva richiamarmi indietro perché cosa? Cioè, c'è immediatamente il tentativo di tappare la ma bocca. Ma se la politica resiste, questo potrebbe essere davvero un'innovazione forte. Mario, una domanda al professore. Buongiorno professore. Ciao, allora, buongiorno. Qual è la differenza tra l'azione fatta dalla BCE adesso, decisa adesso, e i programmi invece messi in piedi già da molto tempo dalla Federal Reserve e dalla Bank of Japan? Cioè, perché dovrebbe funzionare una cosa della BCE laddove anche la Fed e la Banca del Giappone hanno avuto i loro problemi? Ma la differenza fondamentale, che ho già commentato prima, è che loro intervenivano su tutti i punti del sistema ove necessario. Compravano titoli pubblici all'emissione, sì. Finanziavano le banche non targeted, purché a un certo punto le banche si riprendessero, e soprattutto hanno acquistato direttamente l'equivalente delle cartelle fondiarie nostre. Cioè, hanno finanziato direttamente l'edilizia senza passare attraverso l'intermediazione delle banche. Questa è la differenza profonda. Anche negli Stati Uniti, in Giappone, in Inghilterra, ci sono state polemiche per l'inflazione. Sì. Inflazione che dopo anni di emissioni massicce di base monetaria non si è rivelata. Perché lo sviluppo non è un problema connesso solo al credito, ma è connesso alle aspettative delle persone e soprattutto al comportamento della politica fiscale. Professore, sì, professore, abbiamo un nostro ascoltatore, Emanuele Dall'Imbiate, che dice: buongiorno, dite al professor Savona di farsi un giro in provincia e di contare i cartelli vendesi sugli immobili. Costruire per cosa? No, esatto, questa è la tassazione. Io ho preparato una memoria per la Confedilizia in cui dimostro che per incassare 24 miliardi di euro nell'edilizia praticamente lo Stato ha inflitto una perdita sul patrimonio nell'ordine dei 1.200-1.900 miliardi. Bell'affare è stato fatto, e siccome questi investimenti sono investimenti nei portafogli delle famiglie, anche delle famiglie, compresa la mia, la quale convinte del fatto che le pensioni non sarebbero state sufficienti si erano preparati un portafoglio, che la storia dice che gli italiani hanno fatto metà in mattone e metà in cioè, ecco. C'è Pietraggio Buttafuoco, vuol fare una domanda, professore. Buongiorno professore, le faccio una domanda proprio da ignorante, quindi mi perdoni. Io non voglio fare l'esempio del Giappone, farei quello dell'Ungheria, che alza un muro verso la BCE e verso il Fondo Monetario Internazionale. Quindi la mia domanda da ignorante è questa: ma quali sono gli effettivi margini di sovranità e di decisione politica dell'Italia? Ah beh, se a un certo punto non facciamo quello che suggerisce Guarino, cioè di chiedere il rispetto dei patti, e continuiamo invece a dare dimostrazioni di fedeltà europea e di desiderio di rispettare più che i patti le politiche che attuano i patti, allora noi non siamo in grado di ottenere un dividendo positivo. Quindi deve essere chiaro, questa è una posizione, che qualora loro non rispettino i patti, qualora non si facciano politiche che non escludano la disoccupazione dai diritti civili, perché l'occupazione è un diritto civile che si è affermato nel dopoguerra, quando dopo la firma del trattato gli Stati Uniti dissero: entriamo in un'era dove non ci si potrà più giustificare la disoccupazione. Ci fu una famosa frase che a un certo punto fu detta, mentre oggi ritorniamo all'idea che siccome l'85% delle persone stanno bene, il 15% può soffrire, peggio per loro. È direi un approccio sbagliato, quindi certo, devono essere convinti che o si rispettano i va fatti. Va bene, comunque speriamo che questa linea Guarino abbia, come dire, incidenza sull'azione politica del governo Renzi in Europa, perché è una, non dico l'ultima spiaggia, ma certamente è un punto centrale. Grazie professore. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 di sms. Ogrim si è capito che deve stare al posto suo. Genè. Io voglio dimostrare a papà che ce la posso fare. E se sto con te, sicuro posso fare. Fino a Roma mi arrivano. A me e a te insieme, non ci ferma nessuno. Mo si tu lo vegas. Se mio marito dice che si deve fare così, così si fa. Papà, tu hai da passare la mano. Mi stanno addosso, compiere. A casa qualcuno che ha parlato. Era Gomorra, naturalmente. Marco De Marco, editorialista del Corriere della Sera, Gomorra, la serie che sta quasi per finire, ha fatto dei dati molto interessanti, 750.000 spettatori a puntata, ricordiamo che è su Sky, il doppio di Romanzo Criminale, che era la serie che l'aveva preceduta. Ecco, eppure lei sul suo giornale, sul Corriere della Sera, ha scritto che il film racconta solo la parte negativa di Napoli e che questo non va bene perché il male senza bene non va raccontato. Buongiorno De Marco. Buongiorno, buongiorno. È così? Beh sì, in realtà ho scritto una cosa che mi sembrava ovvia, perché era una novità e la sottolineavo, cioè che si raccontava una realtà escludendo tassativamente, quasi programmaticamente, il bene. Quindi non tanto diciamo il racconto di una Napoli unilaterale, ma proprio proprio dal punto di vista del plot narrativo, insomma. Sì, cioè, io a memoria non mi ricordo una cosa del genere. Infatti Romanzo Criminale, per esempio, il Romanzo Criminale c'erano delle figure che rappresentavano il bene. Ma lei pensa che questo successo di identificazione, no, sostanziale con il male che avviene in questo racconto, che soprattutto poi nelle prime quattro puntate, perché sì, poi in realtà la sceneggiatura cambia e il modulo, diciamo, narrativo è un po' diverso, ma questo è un fatto più tecnico, cioè c'è un rischio reale di emulazione senza freni, questo è un po' la sua critica? No, perché se fosse stata questa l'avrei fatta prima come critica. No, cioè io non credo nel potere persuasivo, nel potere totale, no, di persuasione della televisione, perché se fosse così noi dovremmo metterci d'accordo. Questo potere c'è, ma c'è sempre, oppure non c'è mai. No, ma questo potere c'è, non è totale e immediato, totale, però certamente è la vendita di modelli di comportamento e di sistemi, cioè, di valori. Lì che cosa succede? Succede che quando tu mi escludi il bene dal racconto, io posso decidere di parteggiare per il meno peggio o il peggio in assoluto, non ho alternative. Perfino in Gomorra, a cui questi episodi sono ispirati, perfino Gomorra ha il bene, perché il bene è l'io narrante, cioè Saviano, tant'è vero che Saviano viene in qualche modo addirittura mitizzato, catalizzando su di sé tutta la parte positiva, no, della realtà. Qui invece non c'è. A me pare una novità, in Italia non fa parte della tradizione del racconto. No, perché penso perlomeno. Ma non solo in Italia, voglio dire, la dialettica fa parte della narrazione. C'è Pietrangelo Buttafuoco che vuole fare una domanda. Sì. Ciao, scusami, tu hai visto Maleficent, il film di certo, Disney? Certo, ecco. L'hai fatto apposta, bravissimo, ecco. L'ho scritto anche questo. Per me quello è il simbolo, diciamo, di come si debba uscire da ogni forma di di manicheismo, è come il male non sempre è tutto male e il bene non è sempre tutto il bene. Hai fatto l'esempio secondo me più calzante. Ed è una storia che comincia da lontano. Ricorderai, a parte il capolavoro Il Padrino, dove c'è, Mario Puzo fa una descrizione che è diventata epica, però c'è anche un esempio che vorrei ricordare a te, agli ascoltatori, anche a Giovanni e Mario, che è quello del Capo dei Capi, che fu uno sceneggiato, anzi una fiction, non so come definirla, che Canale 5 mandò in onda, dove veniva raccontata la vita di Totò Riina. Certo. E ricorderai come perfino a Napoli già cominciarono a circolare i DVD contraffatti che ingigantivano l'evento. Ma non è che forse il male di per sé ha una narrazione più facile, più immediata, più affascinante di quanto possa... Lo dice a noi giornalisti che viviamo di quello. Certo, voglio dire, il vantaggio se lo prende tutto, quindi la scelta dovrebbe essere, secondo me, e lo dico provocatoriamente, allora quella della censura. Vabbè. No, fin qui non arrivi. Non mi associo. Ecco, ma tu come lo racconteresti? Tu come la racconteresti invece la Napoli che contiene la camorra? Beh, io ho detto in quel pezzo che tu hai citato, io ho detto che in realtà quello che viene fuori è l'impossibilità quasi di raccontare questa città, perché poiché è così complicato, spesso noi ne usciamo con delle metafore, da quella della città porosa di Benjamin fino a quella della nottata, no? di Edoardo, la nottata che non passa mai, sono tutte immagini, metafore, ma le metafore dicono tutto ma dicono anche nulla, quindi questo eccesso di metafore su Napoli è l'altra parte della medaglia. Pietrangelo, scusa, c'è ancora... Marco, una domanda, ma tu tra Fausto e Mefistofele per chi tifi? Io per Fausto, però mi rendo conto che diciamo è di la verità, è Mefistofele quello che cattura tutti. Vabbè, però insomma, tu Mario hai una cosa da chiedere a De Marco? Sì, ciao Marco. Ciao. Ma non è che manca un po' quella stagione fantastica di creatività a Napoli, sì, che fu rappresentata, sì, secondo me, in maniera eccellente dai giovani Tullio De Piscopo, Pino Daniele, sì, questa anni 70, esatto, sì, questa grande fusione di cultura italiana che però aveva un trapianto di mediterraneo, di arabo, di tradizione storica che veniva da anni remoti e che fu recuperata, sì, di cui Napoli secondo me, insieme a parti importanti della Sicilia e del sud, è un esempio. Ecco, perché non c'è più questo? Guarda, io sento l'assenza, poi intanto, magari sbaglio. No, intanto sono d'accordissimo, cioè, noi abbiamo avuto un periodo anni 70-80 in cui Napoli davvero sono cicli. Poi che cosa è successo? Secondo me è successo questo, ma è un tentativo di analisi molto diciamo veloce, che in un certo punto Napoli si è quasi estetizzata, cioè ha quasi creato un'estetica della propria marginalità, e quindi si è in qualche modo addolcita. Tutto il conflitto che era quello appunto degli anni 70, la disoccupazione, i disoccupati organizzati, le lotte sociali, cioè tutto quello si è trasferito al nord di Napoli, cioè tra Napoli e Caserta, e non a caso negli ultimi anni questa grande creatività è tutta concentrata in quell'area. Tu vedi Servillo, lo stesso Saviano, Piccolo, per qualche Pascale, sono tutti autori che vengono da lì, perché lì si è trasferito il conflitto, cioè il conflitto per i rifiuti tossici, il conflitto per la camorra, i casalesi, è tutto lì. Va bene, allora vedremo se questa è la chiave di lettura della prossima Napoli da raccontare. Mix 24. Era chiamata Vuccuzza di Ciuri, faceva l'amore, allo faceva di tutte maniere, del capo, da sotto, davanti e da reri, quando scendeva alla stazione, un paesaggio che avvicino, passando a donare un vecchio caruso, e cogna romano con ne un barrino, c'è volo fa perché ci si gira, e c'è qui invece di cinnebreia, Vuccuzza di Ciuri nell'uno e nell'altro, pitteggia l'amore e una poesia, ma la passione te fa giri, a fare il... Allora, Pietrangelo, oggi oggi tutta una festa di musicanti, una dunata di bocche di rosa, tutte vucuzze di ciuri, e dietro loro c'erano carabinieri impennacchiati, reduci dal bicentenario. Ecco. Quindi Paperino con la sua torta di compleanno, e poi maschi innamorati e trofei di fiori, tornei di fragranze e danze sulle rotaie, ed era Mario Incudine, vucuzza di rosa, principe dei musicanti, vucuzza di rosa, a balla la luna. Sì, ma consiglio, sentendo se come domina è Dio, gropo una bucca all'occorrenza, non sanno dire manco Dio, ma così una vecchia schettosa e agita, senza né figli, senza più donne. Mario, Mario, e oggi nella nostra pentola cosa bolle? Bolla. Ma adesso facciamo bollire, andiamo in Iran. 6 persone nascoste in una città dove in 4 milioni cantano morte all'America per tutto il santo giorno. Poi far entrare 007 qui presente in un paese che beve sangue della CIA per colazione. Esatto. Ho visto missioni suicida nell'esercito con più probabilità di riuscita. Allora, questo è un pezzo epico, certo, di Argo, un film enorme nella sceneggiatura, nella regia, eccetera. Perché? Perché è una cosa che riguarda un po' l'Iran, ma soprattutto gli affari di Monsieur Hollande, le président, con Obama, gli Stati Uniti. I due si sono visti, gli D-Day, lo sappiamo, l'Ucraina, grandi discorsi sulla democrazia, ma alla fine money is money, i soldi sono soldi. Certo. E allora Obama ha detto al presidente Hollande che sì, quella multona da 10 miliardi che sta per piovere sulla testa di BNP Paribas, cioè del più grande gruppo bancario francese, per aver violato l'embargo su paesi come Sudan, Cuba e Iran, e quindi aver fatto operazioni in dollari, quella multa arriverà. Sono 10 miliardi. Allora, accidenti. Poi vediamo se gli fanno lo sconticino o no. D'altronde, Giovanni, segnalo che Bank of America sta trattando una multa da 12 miliardi di dollari per negligenze riscontrate durante la crisi dei mutui subprime. La stessa Bank of America ha già pagato dal 2009 a oggi 25 miliardi di dollari per risolvere le cause. E allora Monsieur Hollande, per favore, pour plaisir, senta qui. Boom, l'astro du jour fait boom, tout avec lui dit boom, quand notre cœur fait boom boom. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois. Ti piace Trenet? Mi piace Trenet, dolce. Dolce, ti piace Trenet, butta fuoco? Altro che, certo, tutto ciò che allontana l'influenza americana. No, volevo dire un'altra cosa. Sentiamo, visto sentiamo. Il pregiudizio condizionato. Mi vergogno. Devo dire tutto ciò che allontana l'influenza becera, antiromantica, quella che proprio esclude il desiderio, il sentimento, l'emozione. Allora sì, ecco. Meno male che sono corazzato. Fortuna che c'è Trenet. Meno male. Andiamo a sentirci uno che viene oggi in Italia. E sentiamolo. Dai. Abenomics has three arrows. La Abenomics è costituita da tre frecce. La prima è quella di una politica monetaria audace. La seconda è costituita da una politica fiscale flessibile. La terza freccia continuerà a incentivare gli investimenti privati. Allora, Shinzo Abe, premier giapponese, è in Italia da ieri sera, vede stamattina il Papa in udienza al Palazzo Apostolico, e poi vedrà anche una photo opportunity, più che altro una stretta di mano, però in questi casi si fa diplomazia, Renzi a Villa Panfili stamattina. Perché solo una stretta di mano? Perché in realtà veniva a vedere Papa Francesco, e in un tour molto più largo il premier giapponese, era, diciamo così, una sosta, però comunque vede il pontefice. Parliamo allora della strategia del giapponese. Esatto, la cosa interessante oggi non è tanto la sosta quanto il fatto che il premier giapponese ha chiesto al più grande fondo pensione del paese di spostare una parte degli investimenti dal debito pubblico alle azioni, cioè di abbandonare una strategia di investimento molto conservatrice per rischiare un po' di più, aumentare i rendimenti di portafoglio e facilitare che cosa? Un rally della borsa di Tokyo. Ammazzo quanto tirava sta macchina. Insomma, mamma però mia, è molto interessante. Questo è tema di grande dibattito. Vai, Teresa! Vai, Sara! Ma chi è? finalmente una sigla anch'io, e per questo ringrazio Matilde che me l'ha mandata. Sono proprio contenta oggi. Ho una notizia sugli uragani per voi. Infatti in America hanno fatto uno studio su 94 uragani che hanno colpito gli Stati Uniti negli ultimi 50 anni. Sapete cosa hanno scoperto? Che le tempeste Katrina, Irene, Sandy, Rebecca, cioè quelli con i nomi di donna, spesso vengono sottovalutati dalla popolazione. Sentono un nome di donna e pensano che la tempesta sia debole, e invece sono quelli che hanno provocato più danni e più vittime degli uragani con nomi maschili. Ragazzi, tranquilli, non vi sto minacciando. No, lo è. Insomma, anche negli uragani vi nascondete. No, diciamo. In più vi avviso già da oggi, fra 2 anni arriverà Virginie. Oggi siamo in Francia proprio. Fantastica François Hardy. Ti piace François Hardy? Salamino! Salamino! Salamino! Salamino televisivo oggi! Olla. Allora, dice, la RAI può essere una leva produttiva del paese. Questo dice Letizia Moratti, che fu presidente dell'azienda di Viale Mazzini. Parafrasando Archimede, si potrebbe dire: datemi la RAI e vi solleverò l'Italia. Infatti, in questa intervista di Mattia Feltri sulla Stampa, Moratti dice una cosa: il problema è strategico. Dopodiché aggiunge un fatto sul come si creano i posti di lavoro. E qui, aprendo le virgolette, entro in un terreno delicato, Giovanni, perché tu sai cosa dice la Moratti? Che dice? Noi rilanciamo con quel grande professionista che è Giovanni Minoli, il centro di produzione a Napoli, che cominciò a trasmettere Un Posto al Sole, nota Feltri, l'unica trasmissione che si autofinanzia. Ma in effetti è interessante analizzarla, perché ha fatto 1700 posti di lavoro intellettuali a Napoli, Un Posto al Sole, in 14 anni di A proposito vita. Della Napoli di cui parlavamo esatto, prima. Per questo poi fa un'incursione in Sicilia e lì si confonde il presidente e Agrodolce diventa latte e miele. Restando in Sicilia dice: riportai il teatro in TV con un altro gigante, Pippo Baudo. Arrivammo subito all'8%. Allora, parafrasando Archimede, datemi la RAI e vi solleverò il mondo. Vabbè. E com'è? È sempre lì, no? Il servizio pubblico. E allora una dedica! Vai! Vabbè. Vengo e rimango posto dopo il TG. Che grande che era, ragazzi. Ma senti, che era, che è? Qui sì, c'è Salvatore da Milano che ci scrive: di Napoli se ne teme la grandiosità. È l'unica città in grado di mettere in difficoltà le metropoli più importanti d'Europa. Hai Posso capito? Dire una cosa? Sì. Salvatore sempre da Milano. Nel solco di quello che ci dice Salvatore da Milano, una cosa che gli storici e la stessa consapevolezza della nazione italiana non ha mai avuto, che l'idea che Napoli, che sia stata capitale e che sia stata cancellata, è come se un qualunque villaggio di Francia avesse inghiottito Parigi. E così accadde a Napoli, che venne inghiottita dalla provincia italiana, e da lì la sua pazzia. Questa è un'analisi interessante. Bolla. Buona bolla. Presumendo che il soldato Ryan sia sopravvissuto, potrebbe essere dovuto. In effetti, forse è rimasto ucciso in azione. Francamente, signore, se inviamo una sorta di missione di salvataggio, andrà a finire che verranno uccisi anche loro. Salvate il soldato Obama, cari ascoltatori. Allora, la storia è fantastica. Io la sto seguendo da giorni con attenzione e con anche un po' di passione, perché Obama ha liberato il soldato Bergdahl. Da che cosa? Dalla prigionia dei talebani. Era in mano ai talebani dal 2009, 5 anni. In cambio di che cosa? Del rilascio di 5 pericolosissimi prigionieri che erano detenuti a Guantanamo. Fin qui tutto a posto. Conferenza stampa Rose Garden della Casa Bianca con i genitori Bergdahl, tutto bene. E poi? Ma Bergdahl pare sia un disertore. un disertore. Oh yes. Stanno venendo fuori delle cose incredibili. Allora, pare che abbia abbandonato il suo posto di osservazione nella notte, lasciando tutto, e se ne sia andato a spasso per la campagna afghana. Naturalmente, poi i talebani. Anche dei gusti strani, eh? Sì, ma parecchio strano come soldato. E insomma. La festa di rientro a casa, nella casa natale è stata cancellata. I democratici sono infuriati. È scoppiato un caso politico pazzesco. E allora che si fa? Si canta? Cantiamo. It's okay, I just wanna fuck your friend. Somewhere there's a fly in the spider web. Bella, è un nice. Niente male, niente male. Anche i propositi. È il canzoniere di oggi? E ora quest'uomo è diventato un dio e un poveretto che deve piegare la schiena. Con noncuranza, agli indirizzi di un cenno, ebbe le febbri quando era in Spagna e quando lo prendeva l'accesso, notai come tremava. Sì, è vero, questo dio tremava, le labbra codarde sbiancavano e quello stesso occhio che soggioga il mondo col suo sguardo perse il suo lustro. Lo sentì gemere, sì, e quella sua lingua che ordinò di stare attenti e trascrivere nei libri e i discorsi gridava, ahimè, come una bimba malata. Salamino! Salamino di portafoglio, anzi di portafogli, Salamino di controllo, perché a Firenze il prefetto ha chiesto i tornelli alla stazione, i turisti sono esasperati, vengono borseggiati continuamente, il sindaco Dario Nardella ha detto sì, a rischio di mettersi contro chi? Contro il potentissimo parere, consiglio, monito del Santo Padre attualmente regnante Papa Francesco. E a questo punto però, dico io, bisogna dare la solidarietà agli autisti degli autobus, perché pare che sia diventato politicamente scorretto avvisare i passeggeri dell'eventualità di incontrare borseggiatori. Il Papa ha detto no e dunque aggiorniamo la parabola. Rubate e moltiplicatevi. Oh, Madonna. Oh, questa proprio. Questa mi sembra proprio forte. E come forte? Scusa, perché non prendono gli autobus? Io che prendo metropolitana, autobus, so perfettamente. 27.000 mani, pure le mutande ci tolgono. Tutto vi tolgono, eh? Vabbè, senti, intanto noi parleremo di Nicola Pende. Nicola Pende è stato il fondatore dell'endocrinologia moderna, è uno scienziato di fama mondiale. Sul suo caso però si è discusso molto, perché si dice che avesse sostenuto il manifesto della razza voluto da Mussolini nel 38. E così ne parlavano De Gasperi, Togliatti e Giuseppe Nathan. Sono contrario al collocamento a riposo del Pende, dal momento che contro di lui non vi è stata alcuna proposta della commissione di epurazione né del ministro. Se Pende viene lasciato in servizio, perché si sono eliminati dei magistrati che hanno colpe minori delle sue? Il professor Pende non ha mai firmato il manifesto degli scienziati sul razzismo, ma anzi manifestò il suo aperto dissenso. Come esponente dell'ebraismo italiano, credo di dover richiamare la sua attenzione, signor Presidente, sul pericolo che il provvedimento adottato possa risolversi in una perdita della scienza italiana a vantaggio dell'estero. Dunque, un caso molto molto controverso, molto interessante, raccontato da Carla Durante, curato da Marina Milone, dopo il giornale radio naturalmente, ma intanto il professor Simonelli, che è in collegamento, ci dirà dov'era il canone ieri sera. Però un attimo prima devo leggere come si fa da critici, un sms che abbiamo ricevuto, come si fa da critici a non vedere i messaggi positivi di Gomorra, che alla fine c'è solo il carcere, la morte, lo sfruttamento, il reclutamento, meglio non intraprendere quella strada. Paolo da Milano legge in positivo tutto il contrario di quello che diceva il nostro amico giornalista. Professore, lei? Il canone? Sì. Sentitelo, sentitelo da dove arriva. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi si distende Quarry. Mennea cerca di recuperare, cerca di recuperare, recupera. Era il grandissimo Mennea che vince la medaglia d'oro, professore. Ieri sera c'era la Diamond League in diretta, prima su Rai Sport e poi su Rai 3, e ovviamente il canone era lì, perché intanto perché ricordare Mennea è più che doveroso, e poi perché l'atletica leggera è la madre di tutti gli sport, e siccome sempre diciamo, insomma, questo calciocentrismo, questa egemonia del calcio, quando in diretta va uno sport che non è il calcio e non è neanche il ciclismo, ma è questa un po' dimenticata atletica leggera, dobbiamo assolutamente premiare Rai 3, perché insomma lì c'è l'origine dello sport moderno e lì c'è appunto una grande serata romana in diretta, cui ci sono i e lì c'era il canone. Ieri sera, io so che voi, professore, un attimo, ci scrivono un SMS non firmato che noi non leggiamo, ma dice: cosa li date a fare i contatti? Siete troppo intelligenti per la gente comune? No, caro ignoto, noi leggiamo i messaggi e ascoltiamo le telefonate se si firmano. E ricordo 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS, aspettiamo la risposta sul canzoniere. Professore, scusi. No, stavo dicendo che so che voi guardate con un certo scetticismo questi miei gusti, questa mia ricerca del canone. Ma è un po' retro, professore, sì. Allora, ieri sera poi, finito ovviamente l'atletica, ho guardato un po' questo famoso anno 1, Giulia Innocenzi, e lì mi sono trovato direttamente negli anni 80, è come se Mennea fosse ancora tra noi a correre, perché ho sentito Sgarbi sparare le sue inutili bordate che spara appunto negli anni 80 senza colpire nessuno e senza modificare niente. Ho visto questo dibattito con i giovani. Insomma, non le è piaciuto? No, sembrano usciti questi giovani dalle parodie dei giovani che si facevano alla TV delle ragazze, tutto ormai visto, rivisto, consumato, prevedibile. Se questa è l'informazione, è il talk show che non funziona. Bisogna fare una moratoria sui talk show, perché neanche quelli che cercano le soluzioni più nuove ci riescono. Ormai Beh, bisogna professore, rassegnare. Quella non è una soluzione nuova, da Amici e Mixer Giovani, già tutto visto da quel punto di vista. Speciale per voi, speciale per voi. Mario, c'hai un aggiornamento? Sì. Scusa, allora c'ho un paio di cose velocissime. Il primo, sì, 30 secondi. Mi sarebbe piaciuto uno speciale sui 70 anni del D-Day che l'Italia sta ignorando. Ce lo dice Max da Roma. Siamo d'accordo, è bellissimo. Lo faremo. Gli anniversari sono tanti. Ricordo, per esempio, che oggi ricorre l'anniversario della morte di Bob Kennedy, che fu ucciso a Los Angeles. E infine c'è un aggiornamento: la multa per BNP Paribas richiesta è 16 milioni. Di poco fa. Bene, professore, una battuta, siamo in finale. Consigli per il weekend, soprattutto sì. Per Pietrangelo, che sarà molto triste perché non c'è più che tempo che fa. Non c'è più che tempo che fa, ma è sostituito da Colpo di Scena, una serie dedicata ai grandi attori e autori del teatro italiano. Domenica è la volta di Paolo Poli. A seguire, Mrs. Selfridge, la nuova serie sulla invenzione dei grandi magazzini di moda in Europa. Se poi qualcuno trovasse questa linea troppo snob, non va che da girare su Italia 1, dove c'è Radio Italia Live, il grande concerto di Radio Italia dalla Piazza del Duomo. Grazie professore, grazie per i consigli, ci risentiamo lunedì.